Vendo tutto di Matteo Caccia. Vendere le cose non è solo un modo per liberarmi di tutto, è un po' la maniera per ricordarmi che quello che non si vede, che non si tocca, che non si dice, è più forte di quello che ho accumulato nella mia vita. Quindi non mi fermo, vendo tutto. Mi ha lasciato la ragazza, dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta ha toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, ne inizio una nuova, venite a comprarvi questa. La vendita è aperta, oggi vendo un paio di occhiali da sole. A me piace moltissimo, oltre che spostare il microfono in diretta, che fa questo rumore e si sente anche a casa, mi piace moltissimo incontrare gli ascoltatori, cioè gli ascoltatori non vuol dire niente, le persone che ascoltano il programma. Primo perché un conto è vedere dei messaggi scritti oppure vedere una foto su Facebook, e invece un conto è incontrare quella persona che ha delle cose da raccontarti, e di solito quello che mi succede è che le persone che incontro hanno sempre cose più interessanti di quante io ne abbia in testa da raccontarmi. Oggi ho incontrato Giovanni, che è un medico di famiglia, ha 60 anni e vive a Melegnano, e l'ho incontrato perché si è comprato il mio porta CD, quello che raccontava di una promessa non mantenuta. È venuto 2,50 euro, l'ha pagato, è venuto proprio con i soldi in contanti, abbiamo fatto lo scambio, gli ho dato il porta CD e lui si è preso, e io mi sono preso due monete da 2,50 euro. Giovanni fa il medico di famiglia, mi raccontava, e quindi abbiamo fatto 4 chiacchiere sul suo lavoro, no? Sul fatto che lui va molto in giro, più che stare in ambulatorio lui va in giro, mi racconta, perché ha molte persone anziane e quindi va a casa loro. Però mi dice che l'80% del suo lavoro è più che prescrivere farmaci e dire quale malattia le persone hanno, se ce l'hanno, è raccontare delle cose. Lui mi diceva: secondo me il tuo programma ha un senso perché racconta delle storie, e le persone hanno voglia di sentirsi raccontare delle storie, e quando possono raccontarti la loro. E quindi io faccio così, visto che ogni tanto non mi dimentico di darla. Vendo tutto @radio24.it è la mail del programma, oltre al profilo Facebook dove per lo più si mandano brevi messaggi. Se avete voglia di mandarmi una mail e raccontarmi chi siete, vendo tutto @radio24.it è il posto giusto per farlo. Buongiorno a tutti, sono le 16:10, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia, Giovanni invece era l'ascoltatore, anzi la persona che ascolta, che si è comprata il mio porta CD. Però oltre che del mio porta CD e di Giovanni, oggi vorrei ricordare che c'è un concorso aperto ormai da una settimana e i partecipanti cominciano ad affluire, numerosi, ecco, volevo dire, che in realtà poi numerosi cosa vuol dire? Che per noi sono 200, per la questura sono 30-35. Tra i racconti che ci sono arrivati per partecipare al concorso Vendo Anch'io, di cui trovate tutti i riferimenti dappertutto, ce l'abbiamo dappertutto, giusto Laura? Sul profilo e sul sito radio24.it. Hanno scritto, allora, Claudio ha scritto un racconto sull'oggetto che vuole vendere, che è un kit di potenziamento per arti superiori. Poi abbiamo una collana di Giada, che non mi ricordo, non credo sia una collana di Giada, ma una collana fatta di Giada, non mi ricordo il nome però dell'ascoltatrice che l'ha scritta. E poi un racconto su una maschera in legno, e poi un racconto su un pendolo, una panca per addominali, va per la maggiore e il fitness, e addirittura Francesco, che ha scritto oggi avendo tutto @radio24.it, vende il suo tempo, che non ho capito se lo mette a disposizione o proprio vuole dei soldi. Laura, no, lo mette a disposizione. Fortuna che c'è Laura Faginque, la donna che ci salva ogni volta in diretta. Per continuare a partecipare al concorso, vendo tutto @radio24.it. Per capire come si fa, comunque avete ancora tempo, fino a una settimana da Riva del Garda, quindi è fino a, adesso l'ho detta, venerdì 11, giusto? L'ho detta giusta, Bonini? Fino a venerdì 11 potete mandare il vostro racconto, un racconto di una pagina, una mini biografia e un desiderio che volete realizzare coi soldi che si farà all'asta della fine del concorso il 19 di giugno a Riva del Garda. Prenotatevi il fine settimana e pensate all'oggetto da vendere. Andiamo avanti però, perché oggi l'oggetto che vendo sono un paio di occhiali da sole, ce li ho in studio. Che brutto essere alla radio oggi. Lo dico così, Faggi, non fare quella faccia, perché si vedrebbe che faccio tutto il programma con gli occhiali da sole. C'è la webcam? Non c'è. Ma c'era una volta la webcam. Marco Tulli, oggi la regia è piena di gente, perché non c'è la webcam? Vabbè, comunque, per chi fosse interessato, ho semplicemente la puntata con gli occhiali da sole che vendo oggi. Questi occhiali da sole li ho ricevuti in regalo, e non cominciate a mandare email: oh, ma vendi solo la roba che ti hanno regalato. Vendo tutto, quindi anche la roba che mi hanno regalato, ad una festa che ho organizzato un anno fa. Io non organizzo mai feste, per due motivi. Primo, perché è troppo stressante stare dietro a tutti quanti e gli amici degli amici e presenta questo. Ah, sai chi è lui? Lui è l'amico di... Ah, lui è il cugino di... E poi devi stare attento che tutti si divertano, che tutti siano allegri. Insomma, un delirio. Ma soprattutto non organizzo le feste perché a una festa vera e propria arriva sempre la polizia. Cioè, se è una festa che si rispetti, i carabinieri o la polizia... Allora... Cosa vogliamo fare qua? Harry, e si annunciano sempre così. Buonasera, documenti, chi è il padrone di casa? A quella festa è arrivata la polizia. E se, quando arriva la polizia, me li tolgo se no non vedo niente, questi occhiali. Quando arriva la polizia, il padrone di casa si deve inventare qualcosa, no? Cioè, si deve inventare una scusa. Tipo, nel mio caso un anno fa è stata... guardi, è la festa finale, che non era una scusa in realtà, la festa finale di un programma radiofonico e quindi siamo qua in tanti. Ovviamente quelli ti guardano come dire, raccontamene una vera e non che la festa di finale di un programma radiofonico. Però c'è gente che dice che domani parto per l'Iraq e quindi questa è la mia festa finale. C'è gente che dice ho avuto un figlio anche se magari c'ha 16 anni. Gente che dice mi sono appena laureato anche se ne ha 40. 80024 0024. Fermi lì, fermi lì. Ok, se avete inventato una bella scusa e volete raccontarcela, ma solo se è bella, 80024 0024. Altrimenti io vorrei al telefono oggi solo le forze dell'ordine. Vorrei solo carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco, vigili urbani. Forza, forze dell'ordine. Questa la dovevo dire. Scusatemi, ce l'avevo qua. Forze dell'ordine, forza. Tutte le scuse, e l'ho ridetta anche. Tutte le scuse che vi hanno inventato, non quando avete dato multe, non quando avete fermato la gente per strada, ma quando siete arrivati ad una festa a luna dicendo la solita frase. Buonasera, cosa vogliamo fare? Chi è il padrone di casa? La scusa peggiore che si sono inventata in diretta avendo tutto. 80024 0024, oppure 349 238 6666. Solo, diciamo, soprattutto oggi le forze dell'ordine. Veniamo alla storia degli occhiali. Per vederli radio24.it, per sentirla eccoci qui. Gli occhiali da sole. Occhiali da sole marca Oakley, modello Sideways, colore marrone azzurro, lenti HDO con sistema shockproof, in dotazione bustina pulente Oakley. Ottime per le attività sportive e quelle mondane, ma anche per chi voglia nascondere gli effetti di una serata difficile. Valore commerciale 149 euro, base d'asta avendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 80024 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Questi occhiali che vendo oggi sono un regalo per il mio ultimo compleanno. Il 24 di luglio del 2009, dopo anni che non lo facevo, ho organizzato una festa. Essere festeggiato mi imbarazza sempre un po'. Un po' perché sembra che la gente debba per forza portarti un regalo, un po' perché mi sento in dovere di parlare con tutti, che tutti siano contenti, che se non si conoscono trovino un modo per conoscere, insomma, un inferno. Visto che patisco così tanto essere festeggiato, la festa del mio 34esimo compleanno l'ho fatta passare come la festa di fine produzione del programma dell'anno scorso. La trasmissione era in onda da 11 mesi e tutti noi che ci lavoravamo avevamo una gran voglia di festeggiarne la fine. Un po' perché era stata un'esperienza incredibile e un po' perché non ce la facevamo più. Abbiamo mandato un sacco di inviti, abbiamo comprato chili di salamelle, costine, litri di birra e abbiamo dato appuntamento a tutti in una casa in campagna in provincia di Novara. Quella è una piccola casa che i miei genitori hanno da sempre. Avete presente uno di quei posti in cui passi l'infanzia e ti viene a noia, poi cresci e cominci a riapprezzarlo. Un posto tutto verde, pieno di alberi con un prato quadrato nel centro e il naviglio che scorre in una piccola valle a fianco. Allora, per quella sera il fidanzato di mia sorella, che è innamorato di quel posto, un paio di anni fa ci aveva piazzato una piccola piscina, avete presente, di quelle da giardino, rotonda, alta, poco più di un metro, una roba del genere, sembra quella dei cartoni animati, però vi assicuro che se ci sono 30 gradi e non avete vacanze in programma, quella piscinetta vi svolta l'estate. Insomma, la festa era stata soprannominata Pool Party, che faceva subito Beverly Hills, e il 24 di luglio eravamo tutti là. La gente ha cominciato ad arrivare verso le 8, mentre io ero alla griglia già da un'ora. Le candele sparse per il prato davano un'atmosfera da decamerone e due casse sparavano musica che si perdeva nella campagna. Ormai conoscerete la mia mania per le previsioni meteorologiche, quindi immaginerete quanto meticolosamente io avessi controllato che fosse cielo sereno o poco nuvoloso. E infatti lo era. Solo che d'estate se fa troppo caldo durante il giorno, si dice che tutta quell'energia accumulata debba essere scaricata in qualche modo. La sera del 24 luglio del 2009 il cielo la scaricò sotto forma di un temporale che durò 20 minuti, che furono sufficienti a bagnare la carne, spegnere le candele e raffreddare l'ambiente. Stavo per farmi prendere dallo sconforto quando il temporale cessò e tutti gli invitati si misero a sistemare. Dopo neanche mezz'ora, non fosse stato che l'erba era bagnata, non si sarebbe detto che era piovuto. La festa andò via liscia, fino al momento dei regali, ovviamente. Dopo aver detto in mille modi che ma no, grazie, ma non dovevate, ma la festa non è per il mio compleanno, è per il programma, bla bla bla, mi trovai a scartare i pacchi. Una polo, un maglione, un coltellino svizzero, un quadro, un'altra polo, un altro maglione e un paio di occhiali da sole. Mentre scartavo proprio questi occhiali da sole, quelli che vendo oggi, arrivarono i carabinieri. I carabinieri arrivarono verso l'una di notte. Dissero che qualcuno si era lamentato della musica. Fummo molto civili. Gli offrimmo da mangiare, da bere, anche se ovviamente non accettarono. Noi spegniamo la musica, loro chiusero un occhio e la festa finì lì. Quando tutti se ne andarono, mi trovai con il delirio da sistemare e i regali da gestire. Alcuni li usai, altri li riciclai, altri ancora non so che fine abbiano fatto. Ma questi occhiali alla fine mi sono serviti. Io non ho mai avuto un buon rapporto con gli occhiali da sole, li ho sempre un po' persi in giro, oppure quando mi servivano non li avevo con me, quando li avevo con me mi sembravano inutili, li infilavo nelle tasche insieme alle chiavi, quindi si rigavano regolarmente tutte le lenti. Qualche giorno dopo quella festa però, insieme a Giulia partì in Vespa per la Sicilia. Dico, il viaggio ne ho già parlato nella puntata in cui ho venduto la Vespa, però di quelle 3 settimane a zonzo per la Sicilia occidentale c'è un giorno di cui mi ricordo nitidamente, proprio per il suo bagliore accecante. Avevamo deciso di visitare Gibellina, la città ricostruita dopo il terremoto del Belice nel 1968. Gibellina è un luogo incredibile. È un paese nel cuore della Sicilia che il sindaco dell'epoca, Ludovico Corrao, decise di fare ricostruire completamente a 20 km di distanza dalla vecchia città distrutta. E affidò la ricostruzione ad artisti e architetti di fama internazionale. Per cui in quegli anni a Gibellina arrivarono gente come Pietro Consagra, Ludovico Quaroni, Mimmo Paladino e costruirono un museo a cielo aperto, fatto di palazzi, strade e chiese. Ciascuna di queste è un'opera d'arte. Quando io e Giulia siamo arrivati quasi 40 anni dopo, però l'impressione fu un po' diversa da ciò che avevamo letto sulle guide. Le strade erano larghe e deserte. I monumenti erano erosi dal sole, l'architettura avveniristica sembrava presa dal plastico dell'atelier di un artista e piazzata lì, in mezzo alla Sicilia, in mezzo al nulla. Ecco, Gibellina è un luogo che sembra urlare una condanna, non so quale, ma una condanna. Credevo di aver visto tutto di Gibellina quel giorno, solo che il proprietario di un bar in cui avevamo mangiato una granita ci disse che dovevamo assolutamente vedere anche i ruderi di Gibellina vecchia, quello che rimaneva della città che era andata distrutta. Ci disse che anche quel luogo era stato affidato ad un artista, Alberto Burri, che lo aveva trasformato in un luogo spettrale. Uso proprio quella parola lì, spettrale. E visto che erano le 3 del pomeriggio di un giorno di agosto, proprio non riuscivo ad immaginare in che modo quel luogo potesse essere spettrale. Salimmo in Vespa e partimmo verso i ruderi di Gibellina. Ci sono pochi cartelli che indicano la strada. Se ti fermi a chiedere informazioni, per lo più ti guardano come dire, ma che ci vai a fare, non c'è niente da vedere. Noi giriamo circa un'ora, perdendoci e ripercorrendo strade già fatte. Non avevo idea di cosa ci aspettasse, ma ad un bivio trovammo un cartello scritto a mano che diceva Gibellina Vecchia, Cretto di Burri. Dopo un quarto d'ora di strada sconnessa in mezzo alle colline ci apparve un'enorme chiazza bianca con delle screpolature verticali e orizzontali. Avvicinandoci capimmo cos'era. Sembrava un telo bianco calato sui resti della città. Come se una colata di cemento avesse congelato per sempre le case e i quartieri devastati dal terremoto. Quando ci arrivammo il posto era deserto, parcheggiamo la Vespa e entrammo nel cretto. Le vie lì sono delle fenditure nel cemento bianco, sono larghe 2 o 3 metri, invece i blocchi intorno sono alti 1,5 metri circa. Io camminai per queste crepe sotto il sole in un silenzio irreale. Poi salii su un blocco di cemento, uno di quelli più in alto sulla collina, in modo da avere una buona visuale sotto di me. Il riverbero era talmente forte che mi ricordai di avere con me gli occhiali da sole e me li infilai. E poi me ne rimasi lì, in silenzio, a guardare questa colata bianca. Intorno colline, piante, sotto i miei piedi una maschera di cemento, candido, screpolata dal sole e dal terremoto. Eppure, nonostante tutto, questi occhiali sono in vendita. Il loro valore è di 149 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se siete forze dell'ordine o organizzate feste, 80024 0024. Goes 80024 0024 349 238 6666. Si parla di feste qui e mi scrivono anche: la battuta della prefettura è davvero tutta tua? Ma sei un fine umorista. Ma la battuta della prefettura qual è? Forza forze dell'ordine? A me continua a far ridere, sarò scemo. Probabile che io sia scemo, però. Ciao, sono Roberto, ho la febbre e oggi non ti sopporto. Aspetta un attimo, però, cioè, sono Roberto, ho la febbre oggi e non ti sopporto in assoluto, oppure sono Roberto, oggi ho la febbre e non ti sopporto? Roberto, delucidaci. Però, due maglioni il 24 di luglio, che culo Massimo, guarda, non solo dei maglioni, ma ha regalato anche delle mocassino, delle scarpe senza laccio. 80024 0024, sentiamo invece però parlare di feste da chi le ha vissute. Andiamo a Grosseto da Renzo, pronto? Ciao Matteo. Ciao Renzo. Ciao, buonasera. Senti, ciao. Tu organizzavi feste, ma nel, di mestiere? Per un certo numero di anni, delle feste d'estate a casa mia, le chiamavamo feste di fine estate, un po' un modo di ritrovarsi con un po' di amici, ma avevamo in realtà tre regole fondamentali. Tipo? Invitare un numero X di amici fidati, a quali però dare la possibilità di invitare chiunque. Invitare sempre i vicini di casa, così Chiaro. Non avevamo problemi con il rumore, e soprattutto invitare sempre le forze dell'ordine. Ma scusami Renzo, tu invitavi le forze dell'ordine perché a Grosseto vi conoscevate? No, invitavamo le forze dell'ordine semplicemente per due motivi. Primo, perché mi faceva piacere avere persone che in caso di qualche malaugurato personaggio facesse cose potessero, strane. Potessero, una forma persone. Di sicurezza insomma. La seconda cosa è perché sapevamo che loro avevano tutto l'interesse e quindi anche conoscenza di socializzare con chi che sia all'interno delle feste. Senti, e questo metodo funzionava, Renzo? Questo metodo funzionava benissimo, perché in realtà poi quelli più casinisti erano loro. Quelli che tiravano su la cricca totale di tutta la festa erano loro, e okay. Quindi era bellissimo. E quindi il segreto è: invitate le forze dell'ordine. Renzo, grazie mille, buona giornata. Invitateli perché sono veramente i migliori. Ciao Renzo, grazie. Ciao. Andiamo a Biella da Roberto. Pronto? Ciao, ciao Matteo. Ciao Roberto, come stai? Bene, bene, bene. Senti, andiamo subito al dunque Roberto, perché sto chiudendo. Che cosa è successo esattamente? Ma nel 95 ero in Venezuela, mi sono trovato a Caracas la notte di Natale. Scusami Roberto, e già così potremmo chiudere. Nel 95 ero in Venezuela, ero a Caracas la notte di Natale, e cosa è successo? Che ero in un pub a festeggiare con un altro amico italiano, poi abbiamo conosciuto un olandese in inglese e abbiamo bevuto l'impossibile, siamo usciti, abbiamo preso un taxi, stavamo prendendo un taxi per andare in un altro locale, è arrivata una pattuglia, ci ha fermati, il passaporto e documenti, ci ha portati dentro per accertamenti e io ho iniziato a trovare le scuse, ma stiamo facendo un'indagine per aprire un locale italiano qui. Quanto sei rimasto dentro in carcere Roberto? Due orette. Senti, che lavoro fai tu? Fai il consulente? Sai che quando uno è disoccupato, per darci un po' di contegno, dice che fa il consulente. Roberto, grazie mille. Buona giornata. Ciao, grazie ciao. A tutte. Mi scrive intanto l'altro Roberto che dice: no, solo per oggi non ti sopporto. Quindi evidentemente deve essere la febbre. Grazie a tutti. Grazie a Fabio Rudi Cantadori. Grazie a Laura Faginti, Tiziano Bonini e Alessandro Genovesi. Gli occhiali sono sul sito, come al solito. Domani invece vendo una scatola di caramelle. Ma non una scatola di caramelle comune. Non una qualunque. Se non siete stati a Gibellina, invece andateci. Che un'opera d'arte alla fine è sempre un'opera d'arte. Love, love, love,